Elke! Questa volta la mano di lui si posò sulla coscia scuotendola. Non poteva più fare finta. Impastando un poco la voce, sbattendo le palpebre come chi viene svegliato di sorpresa, si voltò a metà. Che c'è? Stefanuzzo non le diede risposta ed Elke fu obbligata a voltarsi del tutto, assurdamente sperando in quel momento di trovarsi in Svizzera, lontano le mille miglia dalla Sicilia e da suo marito. Ma quello che le si presentò davanti agli occhi la sbalordì. Stefanuzzo aveva gettato via il lenzuolo e si era messa a pancia all'aria, facendo vedere che proprio sotto, a dove finiva la fasciatura, si alzava un palo cicigno come mai lo era stato. E lo stesso Stefanuzzo stava a tagliarselo con una curiosità sicuramente superiore a quella della signora Elke. «Ma non ti farà male?» domandò la signora, trattenendosi dal prenderlo in mano, carezzarlo e baciarlo. Quello era il segno che, comunque fossero andate le cose, la faccenda del tetto morto aveva imboccato una via senza pericolose conseguenze. «Non ti farà male?» ripeté, visto che Stefanuzzo continuava a tagliarselo affascinato. «No, se tu mi vieni da sopra», rispose suo marito. Elke obbedì. Mai Stefanuzzo si era sognato di farlo in quel modo peccaminoso. Una volta al mese, quando si decideva, non si levava manco la camicia da notte e voleva che magari Elke tenesse la sua. Questa volta, invece, mentre Elke lo cavalcava, arcuò il corpo lamentandosi e gliela sfilò dalla testa e non si sognò di scendere dal letto lasciando l'operazione a metà, come sempre aveva fatto le altre volte, per astutare tutti i lumini, mentre Elke rimaneva in giudici. Ristabiliva l'equilibrio religioso sparando mentalmente in tedesco tutte le bestemmie che conosceva. Solo al momento giusto Stefanuzzo si preoccupò di cautelarsi l'anima con una giaculatoria che Padre Cannata gli aveva insegnato. Non lo fo per piacer mio, ma per dare un figlio a Dio. Alla chiesa piccola, che in quel momento era piena di morti russe, dato che i pescatori avevano voluto portarle là, badava Padre Cannata. E due perciò, la mattina del 19 furono le funzioni. Padre Cannata disse messa e poi parlò poco. Essendo che lui non era istruito come Padre Imbornone, si limitò ad apprezzare i pescatori vigatesi non solo per aver salvato vite umane, ma per aver avuto il coraggio con quel mare di attardarsi a recuperare i morti per dare loro cristiana sepoltura e non privarli di una funzione religiosa. Non sapeva, disse, a quale Dio credevano questi russi. E rivolto ai tabuti, si scusò con quelli che c'erano dentro per aver imposto loro preghiere che forse non gradivano dette in quel modo, ma non ne conosceva altre. Quindi, dopo aver ringraziato a nome delle mamme, delle spose, delle figlie russe, di un paese cioè che in coscienza non sapeva dire manco dove si trovava, benedisse le bare. L'altra funzione si svolse alla matrice e fu cosa veramente solenne, che meritò d'essere contata e vista.